In quel giorno il Signore punirà con la sua spada dura, grande e potente, il Leviatan, serpente fuggente, il Leviatan, serpente tortuoso, ed ucciderà il dragone del mare. Quel giorno si dirà: la vigna deliziosa, cantatela. Io, il Signore, la custodisco, ad ogni momento la irrigo, perché non la si danneggi, notte e giorno io la guardo. Non sono in collera. Se ci fossero rovi e pruni, muoverei loro la guerra. Li incendierei tutti insieme. O piuttosto si cerchi rifugio in me, si faccia pace con me, la pace sia fatta con me. Nei giorni futuri Giacobbe metterà radici. Israele fiorirà e germoglierà e l'universo si riempirà dei suoi frutti. Lo ha forse percosso il Signore come percosse i suoi percussori? L'ha forse ucciso come uccise i suoi uccisori? Tu l'hai castigato cacciandolo, espellendolo. L'hai sospinto con un soffio violento in un giorno di vento d'oriente. Pertanto così sarà espiata la iniquità di Giacobbe, e ciò rimuoverà tutti i frutti del suo peccato, quando avrà ridotto tutte le pietre dell'altare come pietre che si stritolano per la calce. Non vi erigeranno più stele sacre ed altari. La città fortificata è diventata solitaria, un sito spopolato ed abbandonato come un deserto. Là viene a pascolare il vitello, vi si corica e ne distrugge i rami. Quando si seccano i rami, si spezzano. Le donne vengono e li fanno bruciare. Sono infatti un popolo senza intelligenza. Perciò il suo creatore non avrà misericordia e il suo fattore non farà grazia. In quel giorno il Signore batterà le spighe dal fiume fino al torrente d'Egitto, e voi sarete raccolti a uno, voi, figli di Israele. In quel giorno suonerà la grande tromba, e verranno gli sperduti nella terra d'Assiria e i dispersi nella terra d'Egitto. Adoreranno il Signore sul Monte Santo, in Gerusalemme.